La certezza della salvezza non può essere predicata da nessuna religione, perché nessuna religione può presentare il bellissimo messaggio di sicurezza che contiene il cristianesimo. Quando i rappresentanti di qualche religione vengono a casa mia con lo scopo di farmi il loro proselito, per concludere una lunga discussione a volte, accade che io dica, partendo dal presupposto che nessuno di noi due abbia ragione, oppure che tutti e due predichiamo il vero Vangelo, esaminiamo un attimo il messaggio che predichiamo. Io ho la certezza di essere salvato, mentre voi non mi garantite sicurezza per il futuro. Se tutti e due abbiamo torto, non vale la pena discutere. Se tutti e due abbiamo ragione, voi potete offrirmi di più di quello che io credo. Oppure, avete un messaggio migliore del mio? No, rispondono i miei interlocutori. Allora, replico, come pretendete che io possa accettare un messaggio che mi offre di meno? Non saprei realizzare i miei interessi. La certezza di essere salvati per l'eternità è tanto lontana dal ragionamento umano che, perfino, molti figli di Dio non sono sicuri di appartenere a Cristo per l'eternità. Quindi è bene chiarire subito che non è salvato solo chi abbia la ferma certezza della salvezza, ma chi non crede a questa promessa si priva di tante benedizioni che Dio ci ha già elargito. Succede come a tre soldati che vanno alla guerra. Uno sa di non tornare, l'altro non sa se tornerà, il terzo invece è sicuro di tornare. Tutti e tre combatteranno, tutti e tre avranno le stesse fatiche e difficoltà, ma lo spirito con il quale combatteranno sarà diverso. Uno sarà disperato, l'altro sarà sempre ansioso, l'ultimo combatterà felice e sereno. Avere la certezza della salvezza non annulla le difficoltà della vita, ma ne cambia lo spirito. Cambia il nostro atteggiamento verso i problemi. Anche i primi cristiani che avevano creduto in Gesù non sapevano che tale fede li avesse salvati per l'eternità, al punto che l'apostolo Giovanni dovette rassicurarli così in merito. Ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. 1 Giovanni 5,13. Da quello che Giovanni aveva detto precedentemente, versetto 9-12, risulta evidente che avere la vita eterna non significhi confessare un giusto credo o appartenere a una religione, ma avere Gesù Cristo. Egli è la vita eterna. Chi ha Cristo ha la vita eterna. Chi non lo ha, non ha la vita eterna. Devo confessare che anch'io per molti anni, dopo la mia conversione, non avevo il cuore in pace per la paura di perdere la salvezza. Leggevo costantemente la Bibbia, ma in paziente attesa che Dio mi desse le sue convinzioni. E è stato solo con il tempo che sono pervenuto a credere alla certezza della salvezza. E sono quindi contento di partecipare in questo studio queste mie convinzioni. Ma perché, mi chiederai, tanti cristiani non credono alla certezza della salvezza? La risposta sembra assurda, e per fedeltà alla loro interpretazione della parola di Dio. Con ciò intendo dire che vi sono nella Bibbia tante affermazioni che, interpretate in modo scorretto, portano alla conclusione che la salvezza si possa perdere. Lo scopo del mio studio è quindi esaminare queste affermazioni per donare quella pace e quella certezza che Dio vuole dare a ogni suo figlio. 1 Ebrei 6, 1-9. Quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra, imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. Ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta. E la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Da questo brano molti credenti hanno desunto che la salvezza si possa perdere, ma da un attento esame del testo siamo portati a concludere l'esatto contrario. Notiamo innanzitutto due parole che gettano luce sul testo. L'autore della lettera, nel contesto dei versetti citati, sta parlando, sottintendendo il pronome noi, affermando «e così faremo». Poi passa a parlare d'altre persone, che definisce quelli, versetto 4, per poi riferirsi di nuovo ai lettori con il pronome voi, versetto 9. Quindi, il cambiamento di pronome dal noi al loro, seguito da un ritorno al noi, fa scartare l'ipotesi che le affermazioni esposte dai versetti 4 a 6 siano riferite ai lettori, cioè ai credenti. Risulta evidente che a cadere non siano dei figli di Dio, ma persone che hanno avuto delle particolari esperienze che, come vedremo, non sono poi così eccezionali. Notiamo ora quali esperienze queste persone avessero realizzato. A. Versetto 4. Sono stati una volta illuminati. Significa che queste persone hanno compreso per lo Spirito Santo le vie di Dio. B. Versetto 4. Hanno gustato il dono celeste. Queste persone hanno avuto occasione di assaggiare, di assaporare e avvertire quanto essi siano da Dio amati. C. Versetto 4. Sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo. Queste persone sono state toccate dallo Spirito, senza però essere nate di nuovo. Infatti, essere partecipi dello Spirito Santo non significa automaticamente nascere di nuovo, altrimenti dovremmo concludere che l'asina di Balaam, nel momento in cui parlò per lo Spirito, si fosse convertita, o che Caiafa fosse un figlio di Dio quando profetizzò riguardo alla convenienza che Gesù morisse al posto di tutto il popolo. Di versetto 5. Hanno gustato la buona parola di Dio. Sono quelle persone che hanno cominciato a comprendere la parola di Dio. E versetto 5. E le potenze del mondo futuro. Sono coloro che hanno sperimentato la vita del cielo, la comunione fraterna, la presenza dello Spirito, il comprendere la parola. Come possiamo notare, queste esperienze sono comuni a molti fra coloro che frequentano le riunioni dei cristiani. Prima o poi questi comprendono, gustano il dono celeste, lo Spirito opera in loro. Gioiscono della parola di Dio e delle esperienze cristiane. Una persona che ha certamente avuto queste esperienze è stato Giuda, apostolo di Gesù. Ma tutto questo non è stato sufficiente perché Giuda diventasse figlio di Dio. Proseguiamo con le considerazioni sul nostro testo. Se cadono, questa parola non ha il senso comune di se sbagliano o se peccano, perché, va sempre ricordato, non vi è nessun giusto neppure uno. Il senso è, se ritornano alla vita di prima, dopo aver fatto quelle bellissime esperienze. Verità, questa, detta anche da Pietro, 2 Pt. 2.2022. V6. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento. Cioè, non possono più avere un'altra occasione di salvezza, perché, avendone rifiutata l'unica, non ve ne sarà un'altra. Se il versetto 6 fosse riferito a dei figli di Dio che perdono la salvezza, dovremmo, per coerenza al testo, parlare di certezza di perdizione per i credenti che peccano. Infatti, se un credente peccando non potesse avere la possibilità del ravvedimento, dovrebbe essere disperato sapendo di essere irrimediabilmente perduto perché, non avendo la possibilità di un altro pentimento, non potrebbe più essere salvato. Ma qualcuno penserà, la persona non si è ravveduta? Il ravvedimento non è la salvezza. Sì, è vero che il ravvedimento fa parte della salvezza, ma non è esso stesso la salvezza. Ravvedersi significa avvedersi di nuovo, in altre parole rendersi conto di aver sbagliato, ma questo non è sufficiente perché la persona sia salvata. Anche Giuda si pentì del male che aveva compiuto e si ravvide. Infatti andò a gettare via i soldi guadagnati tradendo Gesù, ma non ebbe il coraggio, o meglio l'umiltà, di chiedere perdono e andò ad impiccarsi, Matteo 27, 3 a 5. Così pure il faraone. Più volte questi si sentì colpevole, ma il suo cuore si ostinò ed egli non volle chiedere perdono. Questi episodi dovrebbero essere un monito per tutti coloro che si sentono colpevoli perché la loro coscienza li riprende sì, ma essi non vanno alla croce per chiedere perdono. L'uomo è perduto perché non ha fede che Dio lo abbia perdonato in Cristo. Perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. L'autore spiega la ragione della condanna di chi non crede in Gesù Cristo. Gesù è stato crocifisso per riconciliare l'uomo a Dio. Non accettando ora l'opera di Dio, la persona crocifigge nuovamente, per conto suo, Gesù. Di fatto lo rifiuta, provando così che egli sia stato infamato, esponendolo di nuovo al rifiuto e al disprezzo del mondo. Quante persone ho udito affermare che i romani hanno fatto bene a crocifiggere Gesù e che se egli tornasse oggi lo crocifiggerebbero loro stessi. V7:8 Quando una terra, imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. L'autore porta ad esempio la terra. Se essa produce cose utili sarà benedetta, altrimenti verrà maledetta. Perché non deve essere così anche nel campo spirituale? V9. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. A questo punto, l'autore passa a parlare dei suoi lettori. Riguardo a questi, egli è fiducioso di cose migliori che riguardano la salvezza. Quale salvezza? La termine salvezza, è bene ricordarlo, appartiene a quelle parole polisemiche, cioè quelle parole che hanno nella Bibbia più significati. Infatti abbiamo la salvezza dalla conseguenza del peccato, dalla potenza e corruzione del peccato e dalla presenza del peccato. L'autore, in questo brano, si riferisce alla salvezza dalla corruzione del peccato. Conclusione. Questi versetti mostrano come sia pericolosamente possibile, per l'uomo, possedere e sperimentare molto di ciò che appartiene al regno di Dio, senza diventare di fatto una nuova creatura. Sostenere che il brano di Ebrei 6:1-6 si riferisca alla perdita della salvezza significa non tener conto del contesto e dimenticare l'opera di salvezza per la santificazione che Dio compie giornalmente nella vita di un figlio di Dio. Se qualcuno ritenesse troppo severo il giudizio che sia impossibile rinnovare da capo a ravvedimento coloro che hanno avuto certe esperienze spirituali, ricordo ciò che enunciò un cristiano. L'enormità della colpa di quelli che cadono può essere vista solo alla luce della grandezza delle esperienze spirituali che hanno avuto. Ancora una volta rimane vero l'avvertimento di Gesù: a chi più sarà dato, tanto più sarà richiesto. 2 Ebrei 3:4-6. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato, ma Cristo lo è come figlio, sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Incontrando la congiunzione se, sappiamo che essa esprime l'esistenza di un presupposto, di una certa condizione. L'autore si sta rivolgendo a degli ebrei i quali sapevano di essere stati scelti da Dio, e ricorda loro che, popolo di Dio, non si diventi automaticamente per nascita, ma per fede. Se vi è perseveranza, ciò significa che vi è una vera fede. Come si legge in 1 Corinzi 10:1-5, non basta aver goduto le benedizioni di Dio per appartenergli, ma occorre una presa di posizione personale, impegnativa per tutta la vita. I destinatari della lettera sarebbero diventati il popolo di Dio a condizione che avessero, e sino alla fine, resa reale la franchezza e la speranza di cui tanto si vantavano. E così è del credente. Tutti i figli di Dio faranno parte del regno di Cristo, ma non tutti regneranno. Solo chi sarà stato vittorioso sul peccato e nelle tentazioni sarà degno di sedere su di un trono e regnare. 3 Ebrei 10:23-31. Se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, e ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. L'autore non fa riferimento ad altre persone come nel capitolo 6, ma si riferisce direttamente ai suoi lettori. Dopo averli esortati a rimanere fermi nella fede, a compiere opere buone e a frequentare la vita di chiesa, egli continua considerando che, se pecchiamo volontariamente, ci è la perdizione. Molti si chiedono cosa significhi peccare volontariamente. Accade a tutti, infatti, di commettere dei peccati coscientemente, cioè con volontà. Se l'interpretazione fosse questa, si dovrebbe rimanere profondamente turbati, perché nessun credente potrebbe essere salvato, dal momento che tutti pecchiamo. Di conseguenza, non rimarrebbe più nessun sacrificio per i peccati. Dobbiamo ricordare che chi crede in Cristo ha perdonati tutti i peccati, cioè quelli passati, presenti e futuri. Quindi, l'affermazione non può essere intesa che chi pecca non sia più perdonato. L'espressione «se pecchiamo volontariamente» va intesa come quella del capitolo 6, «se cadono». Queste espressioni non si riferiscono ad uno o più peccati, piuttosto ad una presa di posizione di rifiuto nei confronti di Dio. Se dopo aver vissuto per un po' di tempo come un figlio di Dio, la persona prosegue ad avere un deliberato e continuo rifiuto della verità e torna alla vita di prima, per questa non ci c'è più rimedio. Questo è il senso. Riflettiamo sul motivo della condanna. L'autore chiede ai lettori di pronunciarsi in merito al castigo che spetta a chi commette un peccato maggiore. La sentenza decretata per chi trasgrediva la legge di Mosè era essere messo a morte senza pietà né misericordia, sulla parola di due o tre testimoni. Poi egli prosegue, chiedendo che cosa meriti chi pratica simili atteggiamenti. A. Versetto 29. Ha calpestato il Figlio di Dio. Cioè, ha rifiutato categoricamente il messaggio di Dio, lo ha messo sotto i piedi come segno di disprezzo e di vittoria. Infatti, i re, come segno d'autorità, mettevano i loro piedi sul collo dei vinti. B. Ha considerato profano il sangue del patto. Questa frase per un ebreo era molto significativa. Infatti, il sangue era il mezzo attraverso il quale un ebreo poteva essere perdonato. E se qualcuno lo riteneva profano, significava che, per lui, ciò non avesse valore. Gesù ha versato il sangue sulla croce. Questo era il nuovo patto per la remissione dei peccati. Dio ha stabilito un patto, mediante il quale ha perdonato a tutti gli uomini, tramite il sacrificio di Cristo, 2 Cor 5:19. Chi non crede a questo sacrificio lo ritiene profano, inutile e non valido, sacrilego. C. Ha oltraggiato lo spirito della grazia. Lo spirito della grazia è un'espressione ebraica per indicare lo Spirito Santo. Conosciamo che il compito dello Spirito Santo sia convincere le persone di peccato, perché non credono in Cristo. Giovanni 16:9. Chi oltraggia la persona dello Spirito, quello santo, compie un'opera di disprezzo, non credendo a ciò che gli è annunciato. In questo modo la disprezza, la offende, la insulta, la fa bugiarda. E è importante quest'ultimo aspetto del fare bugiardo Dio, perché tutti rimarremo offesi se qualcuno mettesse in dubbio ciò che noi affermiamo. Che dire allora di Dio? Dopo questa sua serie di rifiuti, cos'altro si potrebbe ancora fare per questa persona? Non rimane più alcuna possibilità. Egli cadrà nelle mani di Dio, il giusto giudice, colui che esegue la vendetta. Troppe volte sentiamo parlare di un Dio buono, di un Dio che comunque e sempre perdona. Un famoso ateo in punto di morte esclamò: «Dio mi perdonerà, è il suo mestiere». Purtroppo non vi è nulla di più falso. Come Dio non ha potuto risparmiare a suo figlio il sacrificio sulla croce, perché secondo il piano della grazia, stabilito prima della fondazione del mondo, egli era stato fatto peccato per noi, 2 Corinzi 5:21, tanto più non risparmierà colui che non crede al dono di grazia che gli è offerto. Il testo quindi non è riferito ai cristiani per affermare che questi possano perdere la salvezza, ma a coloro che, avendone udito la notizia, non la tengono in considerazione, disprezzandola. La condanna di queste persone è giusta, inevitabile ed inesorabile. Condanna che loro hanno scelto al posto dell'amore di Dio, perché, meno è bene ripeterlo, meno è Dio che manda le persone all'inferno, ma sono loro che scelgono, nella loro libertà, di andare in un luogo lontano dalla presenza e sovranità di Dio. 4. Ebrei 10 e 39. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. L'autore della lettera rileva che alcuni si tirino indietro a loro perdizione. Nel corso delle nostre riflessioni abbiamo compreso che sia possibile al giusto indietreggiare, perdendo così una posizione di privilegio davanti a Dio. Ma vi possono anche essere altre persone che si tirano indietro. In questo caso la parola di Dio si riferisce a persone incredule che si tirano indietro. Riportiamo alcuni esempi. A. Luca 8 e 13. Nella parabola del seminatore Gesù narra di persone che ascoltano la parola e la ricevono con gioia, ma al momento della prova si tirano indietro. B. Matteo 19 e 22. Il giovane ricco, dopo aver udito Gesù, se ne andò. C. Giovanni 6, 66. Dopo che Gesù ebbe invitato i suoi seguaci a mangiare in senso simbolico il suo corpo e bere il suo sangue, molti dei suoi discepoli Queste persone si tirarono indietro autocondannandosi. Tale rifiuto costò loro la salvezza. L'autore della lettera agli Ebrei riconosce che, sia lui che i lettori, non erano di quelli ma avevano avuto una fede che salva. 5. Ebrei 10, 34-38. Ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Dopo aver esortato i credenti, come di consueto, a perseverare nella fede, l'autore termina considerando che il giusto vivrà per fede, poi continua, se si ritrae indietro Dio non lo gradisce. L'autore della lettera agli Ebrei ripete le stesse verità con altre parole. La comprensione del testo sta nel significato che diamo alle parole giusto e vivrà. Le parole citate dall'autore sono prese dal libro di Abacuc, la versione dello stesso libro. Riportata nel testo masoretico, afferma: il giusto vivrà per la sua fede. La parola ebraica, tradotta con fede, è costanza o fedeltà. Un'altra traduzione afferma: chi è giusto per fede è colui che vivrà, col significato: chi è stato giustificato per fede è colui che sarà salvato. Il senso della frase ha quindi due aspetti. A. Nell'Antico Testamento il giusto era colui che camminava secondo i comandamenti di Dio. La salvezza per questa persona non era garantita dal suo comportamento ma dalla sua fede. B. La persona che come Abramo era giustificata poteva vivere una vita vittoriosa, abbondante, di santificazione solo per fede. Se l'affermazione di Abacuc fosse stata riferita al non credente, sarebbe dovuta essere scritta così: il peccatore vivrà per fede, intendendo, con questo, che sarebbe stato salvato mediante la fede. Dal momento che è riferita al giusto la vita, non può essere. Quindi, l'affermazione «il giusto vivrà per fede» significa che il figlio di Dio potrà vivere davanti a Dio, camminare al cospetto di Dio, camminare nella sua volontà solo mediante la fede. La conclusione è la seguente: colui che non esercita la fede non può essere gradito a Dio. Questo non essere gradito non è riferibile alla perdita della salvezza, piuttosto significa non piacere a Dio, oppure che non sia possibile in tal modo svolgere un'opera per Dio. Che una persona ha, senza fede, non possa piacere a Dio, lo riconosce lo stesso autore poco più avanti, al capitolo 11, versetto 6. Ora, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Che questa verità non si riferisca solo ai non credenti è evidente dalla frase «chi si accosta», che vuol sottintendere tutti gli uomini senza distinzioni. Un figlio di Dio che non cammini per fede non è gradito a Dio. La scrittura N è piena d'esempi. È sufficiente pensare a Saul, il primo re d'Israele, che fu rifiutato da Dio come re. Proprio perché non aveva avuto fede. Ancora una volta la parola di Dio ci mette davanti la grande responsabilità di una vita vissuta per fede, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. 6. Filippesi 2, 12-13. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. In questa affermazione Paolo invita i filippesi a compiere la loro salvezza. Sembra che li esorti a completare quello che ancora non hanno di sicuro. Ciò può significare che non riuscendo a completare la sua salvezza, uno sia perduto. Abbiamo già considerato il significato della parola salvezza. Nella Bibbia riveduta del Diodati, nel glossario, alla parola salvezza si legge: questo termine in ebraico e in greco comporta l'idea di salvezza, liberazione, perdono dei peccati, meno sicurezza, guarigione, conservazione, buona salute, meno aiuto, meno vittoria, prosperità. Quando gli scrittori sacri parlano di salvezza, la vedono come una realtà proiettata in tre dimensioni, passato, presente e futuro. Romani 5, 9, 8 e 24 a 10 e 13. Paolo invita i lettori a portare a termine il cammino di santificazione da loro iniziato. Essi dovevano abnegarsi, lavorare, impegnarsi per essere santi, cioè separati dal peccato. Compito, questo, indispensabile a ogni figlio di Dio, perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Ebrei mezzogiorno 14. Questa espressione può essere intesa in due modi. Senza la nuova nascita, nessuno può essere salvato. Oppure, la nostra percezione di Dio è condizionata dalla misura della santità personale. Per questo, alcuni traduttori hanno reso così il testo in questione. Dedicatevi alla vostra salvezza, oppure lavorate per la vostra salvezza. 7. 2 Timoteo 2, 11-13. Certa è questa affermazione. Se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Paolo fa una serie di affermazioni, una delle quali sembra mettere in dubbio la certezza della salvezza. Cioè, se lo rinneghiamo, Egli pure ci rinnegherà. La parola rinnegare ci porta subito a pensare alla dura sentenza di Gesù in Matteo 1:03-2:33, che merita di essere letta. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio, che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio, che è nei cieli. Gesù promette a queste persone che se lo riconoscono come il Figlio di Dio, anche lui li riconoscerà davanti a Dio, cioè li giustificherà. Se questi non lo riconoscono, egli li ammonisce che si comporterà nella stessa maniera. L'atto di rinnegare, quindi, lo può compiere solo chi non accetti di riconoscere Gesù. Paolo riconosce lo stesso principio: colui che rinnega Gesù, anch'egli lo rinnegherà. Poi Paolo usa un'altra parola, infedele. L'infedele è colui che fa una promessa e non la mantiene. Il marito che afferma d'amare la moglie e poi la tradisce, il soldato che giura per la patria e poi scappa, un amico che promette di nascondere un segreto rivelatogli e non lo fa. Così, chi non promette di appartenere a Dio non può essere infedele se non vive per Lui, mentre lo è il Figlio di Dio, che, a suo tempo, ha confessato Gesù come Signore. Se egli è infedele, Paolo afferma che Dio rimane fedele, perché non può rinnegare ciò che ha promesso. Anziché dare l'idea della perdita della salvezza, Paolo, al contrario, espone proprio il concetto di certezza della salvezza. Un'altra considerazione. Paolo afferma che, se perseveriamo, regneremo pure con Lui. Il regnare con Cristo è quindi condizionato dalla perseveranza. Infatti tutti i salvati faranno parte del regno. Ma non tutti i salvati regneranno con Cristo. Regneranno con Cristo solo coloro che avranno avuto una vita cristiana vittoriosa. Paolo fa una serie d'accostamenti quali: se moriamo, vivremo. Se lo rinneghiamo, ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Dio rimane fedele. E se perseveriamo, regneremo. Il vivere quindi è condizionato dal morire con Lui. L'essere rinnegati è condizionato dal nostro comportamento. E così il regnare è condizionato dal perseverare. L'Apocalisse è piena di queste promesse fatte da Gesù Cristo. A chi vince io darò. Perché? Chi muore perseverando nella fede avrà un premio maggiore di chi è appena salvato, come attraverso il fuoco. 1 Corinzi 3 e un quarto. Con la perseveranza il cristiano non rende sicura la salvezza perché essa riposa in Cristo, ma egli accerta a se stesso che un giorno regnerà con Cristo. Senza la perseveranza, chi è figlio di Dio non è perduto, ma perderà tante benedizioni, non avrà in cielo le corone promesse a coloro che sono stati fedeli. La certezza della salvezza non deve demotivare chi teme Dio, anzi per amore verso Dio. E in vista del premio, egli è stimolato a perseverare nella fede. 8. Ebrei 3, 14. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. In questa promessa troviamo la parola condizione. Il concetto è che colui che ha posto fede in Gesù diventerà partecipe di Cristo, a condizione però che sia fedele fino alla fine. L'affermazione divenuti partecipi di Cristo non ha sempre il significato di essere salvati. Il più delle volte significa provare, sperimentare ciò che Cristo ha vissuto. In Filippesi 3:7-11 Paolo esprimeva la sua gioia rinunciando a tutto ciò che gli portava onore, perché in questo modo poteva conoscere Gesù, conoscere la potenza della sua resurrezione e le sue sofferenze. Credere in Cristo è solo il primo passo per conoscerlo. Il testo di Ebrei mette in evidenza la necessità, la condizione di perseverare nella fede per sperimentare la vita di Cristo. 9. 2 Pietro 2, 20-22. Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltar le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Alcuni vedono anche in questo brano la possibilità di perdere la salvezza. Pietro si riferisce a coloro che hanno conosciuto il Vangelo, che sono già fuggiti dalle contaminazioni del mondo, cioè hanno cambiato in meglio la loro vita per un po' di tempo, ma che in seguito sono tornati a vivere come prima. Quante persone, attratte dal Vangelo, hanno abbandonato una condotta errata e poi, per varie ragioni, sono ritornate a vivere come prima, e a volte peggio di prima. Queste persone, in realtà, non hanno sperimentato la nuova nascita. Appartengono alla categoria di coloro che sono descritti nella parabola del seminatore, dove leggiamo: colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, ma non ha radice in sé ed è di corta durata, e quando sopraggiunge la tribolazione o persecuzione a causa della parola ne è subito scandalizzato. Oppure di coloro che, odono la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola, ed essa diviene infruttuosa. L'esempio che fa Pietro di queste persone è crudo ma reale. Infatti, essi tornano a mangiare quello che avevano vomitato, rigettato, rifiutato. Oppure, una volta che si sono ripuliti, tornano, come il maiale, a rotolarsi nel fango. Ecco perché Pietro conclude che la loro ultima condizione è peggiore della prima, e sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia. Ogni volta che leggo quest'ultima frase, non posso non ricordare ciò che Gesù riferì di Giuda. Il figlio dell'uomo certo se ne va secondo che è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per lui non essere mai nato. Predicando l'Evangelo si offre la soluzione al problema dell'eternità. Contemporaneamente, gli uomini sentendolo sono responsabilizzati più di prima, perché se rifiutano il messaggio, sarebbe meglio per loro che non lo avessero conosciuto. Perché, voi mi chiederete, tanto erano perduti lo stesso. Questo è vero, ma non tutti i perduti riceveranno la stessa pena. Come i salvati avranno beatitudini diverse, così i perduti avranno sofferenze diverse. Prendiamo degli esempi scritturali. Matteo 11, 20-24. I sodomiti, condannati col fuoco, saranno trattati con più benevolenza di coloro che hanno conosciuto Gesù. Luca 20, 45-47. Gli scribi, con il loro comportamento doppio, avrebbero attirato una condanna maggiore. Luca 12, 47-48. Gesù stabilisce un principio divino, scaturito dalla giustizia di Dio: a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto quello che ha. Credo che tutti noi ci comporteremmo così. Infatti, anche un professore chiede agli alunni più intelligenti maggior impegno che ad altri. Noi stessi soffriamo notando dei giovani capaci, che sprecano il loro talento. Dovrebbe forse Dio comportarsi diversamente? 10. Matteo 10 e 22. Mezzanotte 13. Gesù disse: «Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato». Anche Gesù, come gli apostoli, pone la condizione di perseverare fino alla fine per essere salvati. La salvezza è dunque condizionata dalla nostra perseveranza? Non vi è dunque certezza della salvezza. Ancora una volta, la spiegazione sta nel significato che diamo alla parola salvezza. Se essa ha il senso della salvezza dalla perdizione, non si sarà certi della salvezza fino alla morte. Se essa ha il senso di liberazione, conservazione, vittoria, il significato cambia. Esso è individuabile solo esaminando il contesto. Infatti, sia nel discorso fatto ai dodici, sia in quello profetico, Gesù invita a riflettere sulle tante sofferenze e difficoltà in cui sarebbero incorsi coloro che credono in Lui. Non tutti ne riusciranno vincitori, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà vincitore, sarà liberato, sarà salvato. Questa salvezza è il risultato di tante salvezze, cioè di tante vittorie, conquistate giorno per giorno, che costituiscono la perseveranza. Ogni volta che noi rimaniamo fermi nella fede, siamo salvati. Ciò che sfugge a molti è che la vita cristiana sia una vita di salvezza. Occorre realizzare la salvezza dalla potenza del peccato, la salvezza dalla corruzione del mondo, la salvezza dall'ansietà, dalla paura, dall'odio, dal rancore. Chi non realizza tali salvezze non persevera sino alla fine. Giacomo, affermando che sia uomo beato colui che sostiene la prova, 1 e 12, si riferisce proprio a questo. Chi sostiene la prova è un uomo salvato. È un uomo che già ora anticipa quello che egli realizzerà appieno in cielo. 11. 2 Pietro 1, 10-11. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a render sicura la vostra vocazione ed elezione, perché, così facendo, non inciamperete mai. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Anche Pietro esorta i suoi lettori a sforzarsi, o ad impegnarsi, per rendere sicura la loro vocazione ed elezione, ammonizione che può essere così capita: chi non si applica con diligenza o fervore può perdere la vocazione e l'elezione che per alcuni è la salvezza. Anche in questo brano il problema risiede nel senso che diamo alle parole vocazione ed elezione. Molti applicano principalmente la parola elezione al concetto di salvezza, e questo può anche andar bene. Ma è errore applicare questa parola solo ad un aspetto, mentre, come abbiamo già commentato, essa può avere diversi significati. Dio ha eletto, cioè ha scelto, molte persone per compiti vari. Elesse Mosè per trarre il suo popolo fuori dall'Egitto. Elesse Saul come re. Elesse i dodici chiamandoli apostoli, inviati. Elesse Paolo per essere l'apostolo degli stranieri. Il fatto di essere eletto non significa che la persona stia per sempre al servizio di Dio. Yahweh, dopo aver scelto Mosè, voleva farlo morire. Più tardi rigettò Saul quale re di Israele. Giuda, uno dei dodici discepoli scelti, andò in perdizione. Anche in Romani 11 e 22 Paolo presenta lo stesso principio nell'esortare gli stranieri a perseverare nella fede, altrimenti saranno recisi. Questa parola, recisi, non è riferita alla salvezza, ma alla loro chiamata al posto dei giudei. Infatti, questo è il tempo dei gentili. Pietro ricorda ai lettori che, essendo una stirpe eletta, santa, essi siano chiamati a proclamare le virtù di Dio, 1 Pietro 2, 9-10, e non a rimanere inerti. Il loro comportamento deve renderne sicura la chiamata. Ecco perché, poco prima, Pietro aveva esortato di aggiungete alla fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, e all'affetto fraterno l'amore, 1, 5 a 9. Solo così, dirà il versetto 11, faranno parte del regno. 12. Giovanni 15, 1 a 6. Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiolo. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio, e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Gesù afferma che egli è la vite, e noi siamo i tralci. Chi non dimora in lui è gettato via, si secca, e alla fine è bruciato. Non è forse questa una chiara asserzione riguardo alla perdita della salvezza? Gesù si presenta come la vera vite, e il cristiano ne raffigura il tralcio. La condizione normale di un tralcio, attaccato alla vite, è portare frutto. Non portando frutto, esso mostra che la linfa che scorre nella vite non arrivi al tralcio, perciò tanto vale eliminarlo. Gesù allora non elimina ciò che è vivo, ma ciò che è già morto. Al versetto 6 Gesù esprime lo stesso concetto: colui che non dimora in Cristo è tolto via come il tralcio morto. Ciò che ha esposto Gesù in questo capitolo deve servirci per farci riflettere se siamo o no veri cristiani. Il frutto di cui parla Gesù non è altro che il risultato di una vita condotta dallo Spirito Santo. Infatti Paolo nella lettera ai Galati mette in evidenza il contrasto che sorge tra ciò che opera la carne e ciò che produce lo Spirito. Il risultato della carne sono solo opere, mentre lo Spirito produce il frutto. Se consideriamo attentamente le due parole, opere e frutto, noteremo una differenza non solo verbale ma di sostanza. Infatti le opere sono il risultato di uno sforzo, di un lavoro, di un impegno da parte dell'uomo, mentre il frutto dello Spirito è un risultato naturale, senza sforzo, come il frutto che scaturisce naturalmente da una pianta. Dobbiamo comprendere fino in fondo ciò che Gesù volesse insegnare. La vita cristiana è una vita normale, condotta dalla persona dello Spirito Santo, e non il risultato di sforzi umani. Paolo, riferendosi al frutto dello Spirito Santo, lo considera uno solo, e non molti, quasi che il frutto in questione dovesse essere una mescolanza di doni separati. Dio ci ha dato la persona dello Spirito Santo. Quando abbiamo bisogno d'amore, il frutto dello Spirito è amore. Quando abbiamo bisogno di pazienza, il frutto dello Spirito è pazienza. Quando abbiamo bisogno di gioia, il frutto dello Spirito è gioia. Dio ha una sola risposta, lo Spirito di Cristo in noi che produce i suoi frutti. Scrive Dobiglione, la vita cristiana è una vita spontanea. C. È troppa ipocrisia nella vita dei cristiani. Troppa commedia. Nulla nuoce all'efficacia della testimonianza cristiana quanto la pretesa dei figli di Dio di voler sembrare quello che realmente non sono, perché l'uomo della strada finisce col penetrare questo travestimento e ci riconosce per ciò che siamo. La vita cristiana è una vita che dimora in Cristo, riposa in ciò che ha. Quelli che lo sono già non cercano di esserlo. Se desidero esserlo, è perché riconosco che non lo sono. La nostra più grande necessità non è chiedere, voler essere, agire, ma è sapere e riconoscere ciò che Dio ci ha dato. Paolo afferma in 1 Corinzi 2:12 che Dio ci ha dato lo Spirito, perché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Dimorare in Cristo significa vivere ciò che già abbiamo. Non realizzando il frutto dello Spirito, uno dimostra di non avere in realtà lo Spirito. E chi non ha lo Spirito di Cristo non è di Lui, Romani 8:9. I rami bruciati simboleggiano coloro che non hanno la vita di Dio, cioè i perduti. Esiste anche un'altra verità che merita di essere notata. Nella Bibbia il fuoco non è sempre strumento di condanna o simbolo di perdizione. Talvolta è ritenuto un mezzo di purificazione. In 1 Corinzi 3:10-15 è scritto che le opere dei salvati saranno provate con il fuoco, affinché ciò che era opera della carne sia bruciato. Notiamo che in questa descrizione siano le cose più vistose ad essere bruciate, cioè paglia, fieno, legno. Alcune manifestazioni del frutto dello Spirito, come la fiducia, la pace, la gioia, spesso non si vedono se non in momenti particolari. La vita cristiana è una vita nascosta in Cristo, i frutti sono il risultato di quest'unione. 13. Colossesi 1:21-23. Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato. Paolo, rivolgendosi ai Colossesi, afferma che essi possono comparire davanti a Dio santi, irreprensibili e senza colpa. Ancora una volta sembra messa in discussione la certezza della salvezza. Ma anche in questa frase è nascosta, o rivelata, secondo i punti di vista, una grande verità. Lo scopo della morte di Cristo non è stato solo salvare le persone, come purtroppo sembra dai messaggi di tanti predicatori. Lo scopo di Dio, con la morte di Cristo, è anche rendere le persone sante, irreprensibili e senza colpa nel loro cammino di vita giornaliero. Ridurre il Vangelo solo alla morte di Cristo significa mutilare il messaggio di Dio. Notiamo ciò nei seguenti versetti. A. Efesini 2:19-22 La Chiesa come Tempio è il luogo in cui abita Dio e questo luogo deve essere santo come Egli è santo 3 volte. B. Efesini 5:25-27 Gesù si preoccupa non solo della salvezza della sua sposa ma anche della sua bellezza ed integrità. C. 1 Pietro 1:14-16 Ogni cristiano è un figlio di Dio e come ogni figlio anche lui deve assomigliare al Padre. Tutta la scrittura mette in evidenza la santità di Dio, perciò anche il cristiano è chiamato alla santità. Chi è figlio di Dio, non avendo paura della perdizione, potrebbe essere tentato verso un tipo di vita tollerante, ma il fatto che egli desideri la santità dimostra in modo particolare il suo amore per Dio. Desiderare la santità per il solo fatto che Dio sia santo, credo sia un atto di maturità a cui dobbiamo tendere. Infatti alcuni non commettono peccati per paura del giudizio di Dio, altri perché li trovano ripugnanti, altri ancora perché non ne sono soddisfatti. Amare la santità, solo perché questa è una caratteristica divina, ci fa essere vicini al cuore di Dio. A volte stentiamo a desiderare la santità, allora Dio interviene con la disciplina perché il suo scopo non è toglierci la sofferenza, né di farci ricchi, ma di farci partecipi della sua santità. D. Ebrei 12, 7-11 Il nostro istinto ci porta a cercare di essere felici, ma cercando la felicità senza la santità, non si ottiene né l'una né l'altra. Inoltre, abbiamo un grande handicap. Non sappiamo dove si trovi, né cosa sia la vera felicità. Scambiamo facilmente il male per il bene e il bene per il male. Di conseguenza Dio interviene con la sua correzione, modellandoci, facendoci partecipi della sua santità. Perché la felicità vera e duratura è sempre santa. Le stesse vicende in cui ci imbattiamo quotidianamente possono farci diventare mostri o santi. Tutto dipende dalla relazione che abbiamo con Dio. 14. Romani 8:17. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffiamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. L'Apostolo Paolo fa riferimento ad un'eredità come risultato della sofferenza causata dalla fedeltà a Cristo. Credo che non sia difficile distinguere un'eredità dalla salvezza, quindi il testo in questione non può essere visto nell'ottica della perdita della salvezza. Colui che non soffre per la causa di Cristo può perdere l'eredità di Dio e non può essere coerede di Cristo. Qual è il senso di questo discorso? L'Apostolo Paolo domanderà più avanti al versetto 32. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliolo, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Esiste quindi un immenso tesoro a disposizione dei cristiani. E da notare che Paolo non sta affermando come non ci donerà le cose di lui, cioè ciò che possiede, come noi possediamo una casa, una macchina, tutte cose separate da noi, ma come non ci donerà le cose con lui, cioè le cose che caratterizzano la sua persona. Scrive Vunè, Dio non mi darà umiltà, pazienza, santità o altro come doni isolati della sua grazia. Egli non spezzetta la sua grazia per distribuircele in piccole dosi, accordando una misura di pazienza a chi è impaziente un po', d'amore a chi non ha amore un po', di umiltà a chi è orgoglioso, in quantità sufficiente a ognuno, e in modo che noi potremo operare come possedendo una specie di deposito a disposizione. Dio ci ha fatto un solo dono che risponde a tutti i nostri bisogni, il suo Figlio Gesù Cristo. E quando guardo a Lui perché viva la sua vita in me, sarà Lui umile, paziente, pieno di amore e tutto quello di cui avrò bisogno al mio posto. Egli è tutto quello che io non posso, ma devo essere. Noi pensiamo alla vita cristiana come a una vita cambiata, ma non è così. Dio non ci offre una vita cambiata, ma una vita sostituita. Il Cristo in noi è il nostro sostituto. Non esiste nulla di divino che non sia Cristo. Anche la vita eterna è Cristo. 1 Giovanni 5, 10, 12. Noi non siamo in grado di comprendere fino in fondo cosa significhi essere coeredi di Cristo. Non possiamo intuire quanta gloria, quanti beni riceveremo. Vi è un immenso tesoro a disposizione e a una sola condizione, se soffriremo per e con Lui. Il Figlio di Dio non perde la salvezza, ma non per questo è tentato di vivere una vita povera. Ci è in vista un premio così grande che è da pazzi non ricercarlo con tutte le nostre forze. Io sono certo di possedere la salvezza eterna. Non perché ne sono convinto, ma perché Gesù Cristo lo ha detto. Se credo a tutto quello che ha affermato riguardo al mio peccato, alla mia perdizione, alla sua opera, alla mia riconciliazione, alla mia speranza, allora non ho ragione di dubitare che egli abbia compiuta un'opera eterna in me, facendomi diventare per l'eternità figlio di Dio. Tra le promesse della Scrittura che hanno prodotto in me questa conclusione è ciò che Gesù disse nel Vangelo di Giovanni al capitolo 5, versetto 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Su questa promessa riposa la mia anima. Contributo, certezza della salvezza. In italiano sappiamo che esistono diversi tempi del verbo, il presente, l'imperfetto, il passato prossimo, il passato remoto, eccetera. Questo naturalmente accade anche nella lingua greca, sebbene con nomi diversi, presente, imperfetto, aoristo, perfetto, più che perfetto e futuro.